Papa. No, Silvestre, California, Sassa, se mi ascolti lì a Papa Tango. Beh, Santiago Robert è arrivando, Silvestre, qua alla zona di Sassari. No, stavo provando giusto lo Zodiac, vedo come stava andando, tutto qua. Ok, adesso attacco l'altra radio e poi mi dice la differenza da una all'altra. Sì, dammi contro la me invece. Cacchio, ciao Antonio, buonasera. Santiago 910, 920, sì, qui a Radio 5. Vedi un po' come sto arrivando, Antonio, sto usando uno Zodiac e lo sto pilotando col microfono del Midland, il microfono del Midland della 68. Sta arrivando bene, Santiago 9, c'è Radio 5 qua. Io poi me la risposta quando non arrivo. Sto provando una radio qua, come sto arrivando a te con questa radio? 1, 2, 3 25, radio 5. Ecco, questo è quello zio che te l'avevo detto, però mi serve la colonnina, c'è la colonnina bruciata. Gli ho cambiato il finale qua, come se sta andando. Adesso provo la differenza da uno all'altro, Adesso sto utilizzando lo Zodiac, sto provando lo Zodiac pilotato col microfono normale del Midland. Adesso provo l'altra radio, poi mi devi vedere come ti arrivo lì. Sì, va bene, io sono qua. Vedi un po' questa, come è, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, va bene, va bene. Sono amplificata, mi sembra. Va bene, va basso. Vedi un po' adesso, 1, 2, 3, 4, va meglio. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, così va bene. Pappagappa. Vabbè, no, ci sta l'attacco con lo Zodiac che c'avevo qua, quello che avevo letto. C'è la colonnina bruciata, vorrei dentro, ci vuole la colonnina. Qui c'era un problema sul microfono anche. Vabbè. Sono qua, ragazzi, c'è gente. Silvestre proprio di Papatango. Silvestre, ci sei ancora? Sono compone, non cosa riesce a te lo compone. C'era Torello poco fa, sul 12 qua. Vabbè, quello è a posto, quindi ho risolto anche quel problema lì.